Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Già, perché anche oggi abbiamo scovato due progetti, uno di solidarietà e uno riguarda una innovazione tecnologica, che chiedono il nostro aiuto, il vostro aiuto, un piccolo finanziamento. Funziona così il crowdfunding. E allora cominciamo tra poco con i due progetti. Prima però voglio sentire anche il terzo giurato. Va, Domenico da Udine. Buongiorno Domenico. Buongiorno a voi. Benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Tu volevi parlare di qualcosa, volevi fare un intervento? Sì. Sì. Sì, sì, volevo parlare della situazione delle risorse umane in Giappone, no? Sì. Ecco, io sono stato per tanti anni direttore commerciale Italia di un'azienda giapponese, certo. In realtà dal 97 al 2003. E si lavorava da matti? Si lavorava da matti? Sì, al di là di questo, ma avevo un amministratore delegato giapponese, amava molto l'Italia, ma aveva un terrore. Quello che di poter essere richiamato in Giappone con la scrivania davanti alla finestra. Cioè, che cosa significa? Significa essere richiamati per non aver dato una performance buona, non essere licenziati perché non si licenzia nessuno, ma essere messi davanti a una scrivania davanti alla finestra a non fare nulla. Cioè, di fronte al proprio fallimento, al proprio insuccesso. Quindi c'è questa specie di ricatto, no? Sotterraneo quasi. Sì, sì. E secondo me è ancora più terrificante, mi diceva sempre: ah, Domenico, tu se vuoi puoi andare via a cercare un'altra azienda e mettere a frutto questa esperienza con la concorrenza. Per me è impossibile, è un tradimento, non si viene via dall'azienda che si è cresciuto e mai da un concorrente, è disdicevole andare in un altro settore. Questo è quello che ci spiegava anche Polenghi, il nostro inviato. Sì, assolutamente. Sì. Benissimo, Domenico, quindi confermi, ahimè, malissimo, quindi, che la situazione da questo punto di vista in Giappone rischia di essere davvero grave. Ecco perché stamattina abbiamo raccontato la notizia che il governo giapponese, con un tetto agli straordinari, cerca di porre riparo a questa follia del super lavoro. Follia o ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, soprattutto per noi che non siamo a queste latitudini abituati a gente che si ammazza dal lavoro, però non va bene, non si può fare. Allora Domenico, anche tu resta con noi per giudicare insieme a Cecilia e Paola i nostri progetti di crowdfunding. Cominciamo con il primo progetto, che è Stay Active, si chiama così, è nato da una semplice constatazione, cioè che tutti noi passiamo ore e ore davanti a schermi e computer e purtroppo tendiamo sempre più ad avere un aspetto gobbo e incurvato. Ed è così esattamente che è nata l'idea di Stay Active, che è un piccolissimo dispositivo, un dispositivo molto leggero da indossare, che analizza la postura e ti permette di correggerla. Su Apple il traguardo prefissato è di 10.000 euro. È con noi Duilio Francesco, amministratore delegato di Stay Active. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, Francesco, un minuto, poco più, per raccontarci come e perché dovremmo finanziare, sostenere questo progetto Stay Active. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. La storia in realtà non è nata solo sul ragionamento di vedere le altre persone. In realtà è nato perché la mia ragazza mi diceva sempre: sei dritto che sei più bello, dai, sembro più alta io di te. E una volta io mi raddrizzavo e tutte le altre sentivo le sgridate. E questo poi mi ha fatto ragionare, oltre su me stesso, anche su quanti davvero stanno storti davanti al PC o con l'utilizzo dello smartphone e quanti poi effettivamente stanno più pancia in fuori e petto in dentro. Allora a quel punto, insieme ai miei amici, ho inventato questo Stay Active, che è racchiuso appunto in una scatoletta, si indossa in prossimità della spalla semplicemente come una calamita. E dopo una calibrazione che viene fatta sulla persona, che dura solo 30 secondi, si può utilizzare sia da seduto che da in piedi e tutte le volte che si è storti, insomma, avviserà con una vibrazione. Però io mi chiedevo, no, perché è sempre quello, onestamente, perché dovrebbe interessare ad avere una postura corretta? Perché io per primo dicevo, vaffanbrodo, cioè fammi il fondo, però smettiamola. In pochi secondi, perché quasi esaurito. Sì, velocemente, sarà velocissimo. Sì. E la postura, perché è una strategia usata dal sistema neuromuscolare, come dicono quelli bravi, e scheletrico, insomma dal nostro fisico, per rimanere in equilibrio, nel modo meno dispendioso possibile. Ma si sa che bisogna stare dritti, insomma. Sì, esatto. Però questo quindi è innanzitutto una scelta economica, anche perché tra le varie motivazioni il primo motivo di assenza dal lavoro è per problemi legati alla schiena, cervicalgia che sia, o via stai sforando con i tempi, se mi permetti. Scusami, no, figurati, se mi permetti una battuta, sì. Praticamente è per avere la tua fidanzata dentro in una scatoletta che ti dice, esatto, continuamente stai dritto, smettila di stare piegato. Perfetto. Sì, quello, e senza per avere lei che davvero me lo dice, che è il vantaggio più grosso. Soprattutto. Allora, l'altro progetto, il secondo progetto che abbiamo trovato sulla piattaforma di Eppela si chiama Cuochi e Camerieri alla Riscossa. È stata lanciata dalla cooperativa sociale I Ragazzi di Sipario, che promuove l'inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità mentale e sensoriale nel campo della ristorazione. È che trovare un lavoro fuori dal bistrò della cooperativa non è semplice, quindi i fondi raccolti saranno investiti in corsi di perfezionamento che permettono ai ragazzi di inserirsi più facilmente in alberghi o ristoranti o altre strutture. Il traguardo da raggiungere è di 10.000 euro. Allora, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere Marco Martelli, che è il presidente dei Ragazzi del Sipario, non è qui con noi per perorare la causa di cuochi e cameriere alla riscossa, quindi cari giurati e cari ascoltatori, vi starà portando dei piatti ai tavoli, esatto, vedete, da accontentare della nostra presentazione. Io chiedo velocemente a Paola dalla provincia di Monza quale dei due progetti l'ha convinta di più. Paola, allora il primo, Stay Active, perché io lavoro al computer e soffro di questi problemi, quindi secondo me tutti noi soffriamo di questa gobbite. È dritta in questo momento? Io sono drittissima. No, è dritta, dico, se no si raddrizzi. No, mi devo raddrizzare. Ecco, ecco. Abbiamo tutti bisogno di questa app. Cecilia da Roma, su quale delle due idee convergi? Anche io convergo su questo, perché penso che curare la prevenzione, cioè occuparsi di prevenzione, sia la cosa più interessante. Assolutamente. Bene, Cecilia, 2-0. Domenico da Udine, invece, quale dei due progetti ti ha convinto? Beh, mi associo, è 3-0. Sì. Io ho una ragazzina di 13 anni e mia moglie è la tempesta con stai dritta, perché in realtà è un problema, no? Questi ragazzini spesso su smartphone, tablet, con queste spalle incurvate, no? Non va bene. Va bene. Sarà stato che Francesco Duilio era qui con noi. Esatto. Infatti, spezziamo una lancia, sì, per il progetto. Come diciamo sempre, in realtà non è che c'è un progetto che vince, uno che perde. Entrambi i progetti li trovate sulla piattaforma di Eppela. È partito l'applauso giustissimamente per il progetto che ha vinto. Però, diciamo, mettiamo i nostri voti anche dall'altra parte, perché l'altro progetto è un progetto che si occupa di ragazzi con disabilità mentale e sensoriale, e per riuscire a inserire nel mondo del lavoro, che è molto importante. Trovate tutto sulla piattaforma di Eppela, così come sul sito di Radio 24, nella pagina di Si può fare, di Crowd Me Up, con cui ci ritroviamo sabato prossimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.